Il punto di Stefano Folli. Fino a quando si potrà andare avanti con la regione Lombardia, la più importante d'Italia, al centro di questa tempesta? Se davvero il castello di carte resta in piedi solo perché altrimenti la Lega teme che cadrebbero una dietro l'altra come i birilli del bowling anche il Piemonte e il Veneto, allora vuol dire che il gioco dei ricatti e dei controricatti è tale da non poter durare a lungo. Quello che sta avvenendo in questi giorni a Milano, ma anche in molte altre regioni sottoposte a indagini a tappeto, è la drammatica fine di un'epoca, nella quale si pensava che il regionalismo potesse diventare federalismo quasi come in una favola, mettendo sotto il tappeto tutto lo sporco, cioè gli sprechi, le dissipazioni e le illegalità piccole e grandi. È un terribile fallimento storico in un paese che invece ha bisogno di decentrare e non può pensare di riportare tutte le decisioni a Roma. Restare abbarbicati al potere, come sta avvenendo a Milano con Formigoni e nel Lazio con la Polverini, è un danno alle istituzioni e un messaggio sbagliato all'opinione pubblica.